Elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. È pericoloso, sono sicuro. È una roba molto pericolosa. Sì, allora diamo la parola a Franco. E poi anche voi scriveteci se doveste avere qualche piccolo incidente domestico. Sentiamo. Allora, la storia è molto semplice. Avevo un succo di frutta nel frigo, una bottiglia di quelle da 0,75, da circa un mesetto, già aperto, quindi già bevuto più della metà del succo. L'ho riaperta, credo, dopo tre settimane, e praticamente allentando un po' il tappo sentivo un po' di rumore e dopo 2 o 3 secondi è esplosa completamente la bottiglia. Ho rischiato, no, nel senso, scherzi a parte, però tipo, veramente, cioè, il tappo è esploso con violenza e poi è uscito un gas strano, un fumo strano dalla bottiglia. Ma quindi combotto? Combotto, sì, no, combotto. Ma botto violentissimo, veramente, sì, mi sono spaventato. Non creiamo allarmismi, non creiamo, perché potrebbe essere un fenomeno banale, va bene, andiamo, insomma, andiamo dall'esperto. Diamo il benvenuto a Davide Barbanti, buonasera. Buonasera. Lei è tecnologo, aspetti che la presento, alimentare dell'Università di Parma, e ha, insomma, una spiegazione al fenomeno di Franco. Direi di sì. Allora, quello che dice il signor Franco è probabilmente, molto molto probabilmente, legato al fatto che la bottiglia, come lui diceva, come Franco raccontava, è stata aperta e poi è stata tenuta per un certo numero di giorni, 15-20 giorni in frigorifero. E la questione è chiaro che è difficile fare, come dire, una diagnosi a distanza, però dal punto di vista delle probabilità diciamo che ci sono due aspetti. Il primo è che una bottiglia di succo o di un qualsiasi altro prodotto alimentare che viene aperto, poi viene richiuso e poi di nuovo riaperto, come dire, lascia entrare dell'aria che naturalmente contiene dei microrganismi. E molto, quindi anche molto si semplici, altera. Molto banali li contiene. E quindi questo è, come dire, una forma di reinquinamento. L'altro aspetto che mi verrebbe da sottolineare è che normalmente, abbastanza frequentemente, nei nostri frigoriferi domestici non ci sono le condizioni di temperatura come previste per il corretto mantenimento degli alimenti, cioè gli alimenti, moltissimi alimenti devono essere mantenuti tra 0 e 4 gradi. Noi consumatori abbiamo l'abitudine di sovraccaricare il frigorifero o di averne magari fatto una regolazione un po' strana, per cui accade molto frequentemente ed è molto facile che il frigorifero sia al di sopra dei 4 gradi. Quindi magari anche un paio di gradi in più, ecco, potrebbero comportare una sana conservazione, un deterioramento di alcuni alimenti. Sì, esattamente, perché comunque quello che ha fatto il nostro amico Franco non è stato altro che aprire e chiudere questo prodotto più volte o comunque a distanza di un certo periodo di tempo. Il reinquinamento è un fenomeno normale perché ci entra dell'aria, ma le condizioni del frigorifero hanno accelerato questo processo. La cosa. Ecco, ma stia lì un attimo, Barbanti. Franco, ma mi pare che lei abbia anche, insomma, l'esplosione è stata consistente, ha riportato anche una ferita. Una frattura. No, non dico che... No, beh, è stata una bella botta. Cioè, per fortuna che non era puntato verso la faccia, ma non sto scherzando, perché comunque, cioè, mi ha fatto male la mano per qualche minuto, quindi... Cioè, insomma, un bel botto. Sì, un bel botto. Ecco, sì. Perché, Barbanti, noi non abbiamo continuamente episodi di questo genere, quindi vuol dire che a un certo momento c'è una particolare, come dire, acutezza del fenomeno del deterioramento, si forma molto più gas del solito. Esatto, cioè quello che è capitato al signor Franco è, diciamo, l'elemento fondamentale è la durata per cui questo succo di frutta è rimasto in frigo, probabilmente a temperature più elevate del solito. Lo sviluppo che ci può essere stato quindi la crescita di microrganismi, ma che tipicamente nei succhi di frutta possono essere dei lieviti, quindi delle cose non, diciamo, nocive in senso stretto, che però sono gli stessi lieviti che noi usiamo, i Saccharomyces, per capirci, che noi usiamo nella fermentazione del vino piuttosto che di altri prodotti. Ecco, quindi di fatto la questione è che era un succo di frutta che è fermentato con quest'aria che è entrata, e a quel punto che cosa è successo? Che cosa si è formato all'interno della bottiglia? A quel punto si è formata una grossa quantità di anidride carbonica che, essendo all'interno di un contenitore chiusa, è aumentato la sua pressione e tranquillamente in casi di fermentazione si può arrivare anche a bottiglie che hanno 3, 4, 5 atmosfere di sovrappressione rispetto all'esterno. Il succo di frutta era diventato gasato, anzi era anche un po' avvinazzato, insomma. Ah, si sarebbe rimasto colpito del fatto che era probabilmente frizzante e avrebbe avuto un prodotto completamente diverso. Franco, lei ha trasformato il succo di frutto in vino, cioè... però non l'ho assaggiato, devo essere sincero. Ecco, sarebbe stato gasato. Ah, infatti, sì, allora prossimo lo provo. Come il Sels, come una Schweppes, una roba del genere. Grazie, professor Brabanti, grazie al nostro Franco. Franco, ecco, i succhi del 1971, però sono bevuti prima, ecco, non li tenga in frigo così tanto. No, lo finisco tutto la prossima volta. Ecco, va bene. Grazie. Arrivederci a tutti. Buonasera. Se anche voi avete qualche problema domestico come il nostro Franco, scriveteci a elementare@radio24.it perché cerchiamo di risolvere tutti i vostri problemi. Tutti. Ci scrive Paolino Gambero da Padova. Scusate, ma perché l'età del ferro risale a 3-4 mila anni fa? A che cosa l'attaccavano se non c'era ancora l'elettricità? Elementare, Watson.